GR24, Il Sole 24 Ore, edizione extra large. Lo spirito di fazione avvelena la politica. Napolitano ricorda Marco Biagi e chiede di abbassare i toni. La rivolta dei 101 va avanti. Nel PDL discussione aperta sulle norme anticlandestini. Solo manovre in vista del congresso, dice la Lega. Gli studenti dell'Onda sono guerriglieri e come tali vanno trattati. Parole del ministro Brunetta dopo gli scontri negli Atenei a Torino e Roma. La Francia paralizzata dagli scioperi in piazza contro Sarkozy per chiedere più interventi contro la crisi. Oggi si apre il Consiglio europeo straordinario. Legata ad un letto con una cintura da kamikaze, così è stata trovata a Roma una donna in una pensione vicino alla stazione, aperta ogni ipotesi. Il Papa in Africa, messa allo stadio davanti a 60.000 persone, un monito contro la violenza, ma a far discutere ancora la lotta all'AIDS. Ne abbiamo parlato con un medico cattolico missionario. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. Uno spirito di fazione che da troppo tempo avvelena la lotta politica e sociale nel nostro paese. Queste dunque le parole usate questa mattina dal presidente Giorgio Napolitano. Napolitano è intervenuto a Modena a 7 anni dall'uccisione del giuslavorista Marco Biagi. Parole forti le sue, e allora sentiamole. Uno spirito di fazione che impedisce ogni riconoscimento obiettivo del valore di ricerche e di proposte come quelle portate avanti da Marco Biagi, con lo stesso disinteresse e spirito costruttivo, con la stessa indipendenza di giudizio in due diverse fasi politiche. Uno spirito di fazione che impedisce di vedere e apprezzare gli elementi di continuità che si possono presentare in un campo dell'azione di governo e parlamentare come quello delle politiche del lavoro. E invece sarebbe necessario uno sforzo comune, cui nessuna delle parti in causa si sottragga, per riconoscere e coltivare questi elementi di continuità e le possibilità di convergenza che vi si legano, pur in una corretta dialettica tra diversi ed opposti schieramenti politici, di fronte a problemi ancora attuali e nuovi, come quelli che Marco Biagi ha affrontato suggerendo lungimiranti ipotesi di soluzione e prospettive di sviluppo, e dunque come quelli che state per affrontare nel convegno a lui dedicato. Queste dunque le parole di Napolitano, e allora a Modena andiamo, dove c'è il nostro Dino Pesole. Dino Pesole, buongiorno. Buongiorno. Dunque, sono sembrate parole non esattamente di circostanza, qualche cosa di più, nonostante appunto la circostanza fosse importante di commemorazione, Dino. Sì, dicevate bene voi da studio, parole forti, parole pronunciate, occorre dire, con grande attenzione. Napolitano è sembrato consapevole, profondamente consapevole anche, come dire, della portata simbolica anche delle sue affermazioni. È andato diritto al cuore della questione, lo ha fatto chiudendo la mattinata di lavori qui a Modena. C'è un convegno internazionale dedicato proprio alle tematiche del lavoro, con particolare riguardo alla questione occupazionale giovanile, e quando Napolitano parla di spirito di fazione si intende qualcosa di profondamente diverso rispetto alla normale, come dire, fisiologica e anche salutare competizione dialettica tra le forze politiche, sociali, culturali, che è normale in una democrazia. È una sorta di tarlo che corrode la società, in qualche modo impedisce di guardare al di là del proprio interesse, produce in qualche modo insofferenza, fastidio verso chi sostiene e pratica tesi differenti dalle nostre. E questo per dire che questo spirito di fazione nel paese dei Guelfi e dei Ghibellini è in qualche modo il substrato culturale che rende da noi, lo ha detto poc'anzi Michele Tiraboschi, che è stato, come noto, l'allievo di Marco Biagi, ne ha raccolto l'eredità qui all'Università di Modena, unico paese al mondo in cui i riformisti del lavoro hanno pagato con la vita il loro impegno e il loro tentativo di cambiare il paese. Ecco Dino, da una parte il riferimento generale ed è davvero forte, dall'altro anche un riferimento particolare e specifico alle politiche del lavoro e a quello che stava facendo Marco Biagi dal capo dello Stato. Esattamente, politiche del lavoro che poi ovviamente il capo dello Stato non entra nel merito delle singole ricette che si possono mettere in campo. lo ha fatto Tiraboschi, ricordando come la riforma del mercato del lavoro è partita nel 98 dal pacchetto 3EU per arrivare poi nel 2002-2003 all'approvazione della legge Biagi. Diciamo, si tratta di far fronte a un mercato del lavoro che è profondamente mutato negli ultimi anni, ma quello che Napolitano dice qui è che occorre, come dire, liberarsi da questa incapacità di ascoltare, di vedere le ragioni dell'altro. E in effetti la figura di Biagi era esattamente questo, così come lo era quella di Massimo D'Antona. Grazie. Parentelli, uomini del dialogo. Certo, grazie. Allora, Dino Pesole da Modena, a commento delle parole del Presidente della Repubblica Napolitano in questa giornata di commemorazione, 7 anni dall'omicidio di Marco Biagi da parte delle Brigate Rosse. E intanto la giornata politica però si infiamma attorno, anche se con toni non tali da meritare il richiamo dell'attenzione di Napolitano, insomma. Parliamo però della lettera dei 101 deputati, già ribattezzata la rivolta dei 101, lettera con cui i deputati del PDL chiedono al governo di non mettere la fiducia sul disegno di legge sicurezza. Ha fatto infuriare il premier, e ancora se ne parla. Non vorrei, ha detto questa mattina il ministro dell'interno Maroni, che sia però tutta una manovra politica alla vigilia del congresso per la nascita del PDL. È davvero questa la questione? Andiamo allora alla Camera. Il governo non metterà la fiducia, così ha detto sempre il ministro Maroni, ma che succede? A Montecitorio c'è Andrea Viali, buongiorno. Buongiorno Anna, sì, succede che questa lettera dei 101 sta animando soprattutto il confronto all'interno della maggioranza, e c'è chi, come il ministro della difesa La Russa, assicura che non è stato il presidente della Camera Fini ad ispirare questa iniziativa, come Maroni invece anche il vice capogruppo del PDL alla Camera Bocchino difende le misure contenute nel pacchetto sicurezza, mentre a parlare di strumentalizzazioni è un altro leghista, anche il capogruppo della Lega Nord Cota, ma sentiamo proprio Bocchino e Cota. Da un lato c'è la necessità di visibilità di qualcuno che l'ha promosso, dall'altro c'è stata la buona fede di chi ha firmato, convinto dalla bontà di una scelta, senza conoscere a fondo il provvedimento. Governo e maggioranza non hanno intenzione di mettere la fiducia sul provvedimento sulla sicurezza, né tantomeno di obbligare medici ed insegnanti a denunciare i clandestini. Vogliamo solo dar loro la facoltà di farlo, come avviene in tutti i paesi d'Europa. Molti dei presunti firmatari sono venuti a scusarsi questa mattina dicendo di essere stati strumentalizzati. Però su un tema così importante come la sicurezza e il contrasto all'immigrazione clandestina non si scherza. E naturalmente su queste divisioni all'interno della maggioranza interviene anche l'opposizione. Sentiamo cosa ha detto stamattina qui alla Camera il capogruppo del PD Soro e il leader dell'Italia dei Valori Di Pietro. Noi dell'Italia dei Valori siamo convinti che il medico deve curare tutti i malati senza metterli in soggezione che poi li denuncia, perché altrimenti il malato si lascia morire. Per questa ragione ci auguriamo che non 101, ma tutte 50 e passa i milioni, anzi, di italiani la pensano come noi. È un sussulto di voci libere, tardivo ma non banale, di un pezzo della maggioranza che è insofferente per la lunga marginalità a cui è stato costretto, ma è anche la conferma che non era infondata l'indignazione nostra, quella dei medici, della Chiesa, del volontariato, per una norma disumana che ha il sapore antico e odioso delle leggi razziali. Grazie. Allora, Andrea Viali da Roma, e la norma di cui stiamo parlando, la contestata norma del disegno di legge per la sicurezza, imporrebbe a tutti i pubblici ufficiali di denunciare i clandestini. Si è fatto l'esempio dei medici, ma vale anche per gli insegnanti. E allora sentiamo se ci sono reazioni questa mattina da Palazzo Chigi, dove c'è stata una conferenza stampa, presenti il ministro Gelmini e anche il ministro Brunetta. Andiamo con Paolo Anania. Sì, buongiorno. L'occasione, come dicevate, è stata proprio la conferenza stampa convocata dal ministro della funzione pubblica Renato Brunetta e dal ministro dell'istruzione Maria Stella Gelmini. Si è parlato di precari della scuola d'Italia, grazie ai pensionamenti dovrebbero essere ridimensionati, di assenze drasticamente ridotte all'interno della scuola nei primi 2 mesi del 2009. Poi è arrivata la domanda sul disegno di legge sicurezza, la denuncia dei 100 deputati della maggioranza, secondo cui la nuova norma costringerà gli insegnanti a denunciare i bambini immigrati non regolari. Sentiamo come ci ha risposto a questo proposito il ministro dell'istruzione Gelmini. Guardi, io non penso che riguardi e riguarderebbe la scuola. Penso che la scuola sia chiamata ad assolvere sempre di più una funzione di integrazione degli studenti immigrati. Noi stiamo ragionando anche di un tetto, di una presenza della presenza di immigrati, un tetto intorno al 30%. Non sarà possibile dal prossimo anno, sarà possibile dall'anno successivo, proprio perché c'è un problema di organizzazione, ma io sto chiedendo ai dirigenti un grosso sforzo per come dire, risolvere i casi limite anche dall'anno prossimo. Di università ha parlato anche il ministro Brunetta, il ministro della funzione pubblica Brunetta, che ha attaccato il movimento dell'Onda dopo gli scontri di ieri alla Sapienza. Sentiamo il ministro e poi linea allo studio. Studenti, l'Onda non esiste, quindi io sono un democratico, io credo molto più che alle azioni di guerriglia, credo al voto. E quindi l'Onda non l'ho vista nelle elezioni recenti degli studenti, e quindi sono dei guerriglieri e verranno trattati come guerriglieri. Parole che non mancheranno certo di far discutere, queste del ministro Brunetta. E a Roma restiamo, ma per un'altra storia ancora tutta da chiarire. Che sembrava mostrare proprio scene di guerriglia a proposito. E che invece di minuto in minuto cambia sempre più volto. Allora, la storia è questa. Questa mattina è stata trovata in una pensione una donna legata e incappucciata. Addosso aveva una cintura kamikaze, si è parlato di esplosivo, poi la notizia è stata ritrattata. Insomma, cosa è stato trovato e cosa è successo? È andata per noi Paola Cavadi. Paola. Sì, buongiorno. Per gli artificieri della Questura di Roma non si tratta di esplosivo. La cintura legata ai fianchi della donna ritrovata stamattina nel bed and breakfast della capitale non contiene esplosivo, era solo un simulacro, dicono, anche se alla vista sembra proprio una vera cintura da kamikaze. Gli agenti hanno mostrato la cintura ad alcuni giornalisti qui nella sede della Questura e questa si presentava appunto collegata a fili elettrici colorati, alcuni pezzi di plastilina e addirittura a un timer. Comunque, ribadiscono gli inquirenti, l'oggetto non è offensivo, anche se sono comunque in corso accertamenti e analisi. La donna, ricordiamo i fatti, 39 anni, di Torino, aveva dei piccoli precedenti penali. Al momento del ritrovamento era legata mani e piedi, non era incappucciata, ma il suo viso era coperto di sangue. Infatti sul suo corpo, come sul suo corpo, dove erano evidenti appunto i segni delle contusioni, presenti anche sul viso, come fosse stata violentemente presa a schiaffi e pugni, dicono gli inquirenti. Adesso la donna si trova al policlinico Umberto I, quando è stata ricoverata si trovava in uno stato di shock. A fare la scoperta stamattina la proprietaria della pensione, che ha chiamato il 118. Ancora aperti molti aspetti della vicenda, il particolare della cintura, da quanti giorni si trovasse in questo stato la donna, ma soprattutto chi sono i responsabili, chi o chi è il responsabile e perché. Gli inquirenti sono al lavoro per capirne di più. Per il momento da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Paola, e lasciamo la dura cronaca e ci occupiamo di tutt'altro. In sala da domani Aria, il film d'esordio di Valerio D'Annunzi, un film diretto e prodotto da giovani che sono riusciti però a coinvolgere personaggi notissimi del cinema e non solo. Giovanni, aiutata. Ho provato ad uccidere, credimi. Ci sono cose che devi dimenticare. Un regista esordiente, Valerio D'Annunzio, una produttrice molto giovane, Monica Iezzi, ma un cast di attori affermatissimi, Galatea Ranzi, Olivia Magnani, Agnese Nano e Roberto Erlizka. Un film, Aria, che racconta la storia di Giovanni, un uomo maschio di sembianze, donna nell'anima. La cosa che mi interessava era riuscire a trattare il tema della diversità sessuale, rendendolo, diciamo, il fulcro della narrazione, ma nello stesso tempo il pretesto per parlare del problema dell'identità dell'uomo nella nostra società, che ci spinge sempre più spesso a rinunciare, a rifiutare ciò che davvero siamo in nome di una normalità e di una omologazione sociale, no? Valerio D'Annunzio, classe 1975, ha convinto non solo gli attori ma anche il compositore alla sua prima colonna sonora, Giovanni Allevi. Indubbiamente il nome di Giovanni Allevi è un grande vantaggio per il film. Giovanni ha accettato di fare queste musiche quando era già molto famoso, ma non era, se vogliamo, un monumento nazionale come è diventato adesso. Ecco, mi auguro che più che un traino mediatico sia quello che davvero deve essere, cioè una sinergia, dato che il cinema è l'insieme di tante forme, chiamiamole artistiche. Il film Aria però era pronto da tempo, da 2 anni. Non aveva paura Valerio che potesse non uscire mai? Ma io credo che quella sia un po' la paura di tutti i registi, come la paura di ogni attore salire sul palco e dimenticare tutta la parte, no? Nel caso di questo film questa paura era molto più concreta di tanti altri film che magari sin dall'inizio hanno dietro un tantam produttivo che fa sì che uno sbocco distributivo sia automatico, no? Però è chiaro che il vero grande scoglio del cinema italiano è non solo il divario tra produzione e distribuzione. Non è vero che in Italia non si fanno film, perché se ne fanno più di 150 l'anno. La verità è che ne escono molto pochi. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13 e 20 minuti, le notizie di oggi. Nella prima parte di Extra Large ci siamo occupati delle polemiche nel PDL per la lettera dei 101 deputati contro la norma, difesa invece dalla Lega sui clandestini. Il ministro Maroni ha detto che non sarà messa la fiducia. E poi siamo andati a Modena per la commemorazione dei 7 anni dall'omicidio di Marco Biagi da parte delle Brigate Rosse, con l'appello di Napolitano al mondo politico a superare, ha detto Napolitano, le faziosità. Seguite però queste affermazioni di Napolitano dalle dichiarazioni del ministro Brunetta, che ha definito gli studenti dell'onda dei guerriglieri. Poi siamo andati a Roma per la vicenda di cronaca di una donna trovata legata ad un letto con una sospetta cintura, e gli inquirenti stanno cercando di capire che cosa sia davvero successo. E ripartiamo allora nel giorno del Consiglio europeo straordinario per affrontare ancora una volta la crisi dalla Francia, dove oggi è prova di forza tra i sindacati e il governo Sarkozy. Sulle politiche proprio adottate per fronteggiare la crisi economica, gli 8 principali sindacati francesi hanno proclamato lo sciopero generale, uno stop che arriva quando il paese è già attraversato anche da altre tensioni sociali. Allora, che succede a Parigi? Andiamo da Igor Fiatti, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Vi parlo da un'assolata piazza della Bastiglia, dove i manifestanti si vanno via via assembrando. Parigi si prepara così a vivere la sua giornata di protesta. Il corteo partirà infatti tra poco più di mezz'ora, alle 14, e si snoderà fino a Nation. Ma ricordiamo che quello di Parigi è solo uno degli oltre 200 cortei che attraverseranno la Francia in questa giornata di mobilitazione. Per chiedere misure urgenti a favore dei salari e dell'occupazione, incrociano le braccia sia i dipendenti del settore pubblico che quelli del privato. E l'obiettivo dichiarato dei sindacati è bissare o superare i numeri dello sciopero generale dello scorso 29 gennaio, quando, ricordiamo, in piazza scesero oltre 2 milioni di persone. E con questo per ora è tutto, linea allo studio. E ancora segnali di frenata dell'economia italiana a gennaio. Le esportazioni, secondo l'Istat, nel complesso sono diminuite del 25,8% rispetto all'anno scorso e del quasi 6% rispetto al mese precedente. Si tratta del dato peggiore dal 1986. Tra i cali maggiori che riguardano il nostro export ci sono le autovetture, meno 49%, e i prodotti tessili, meno 30%. E anche in Italia si discute delle misure anticrisi, ma in Parlamento è saltata la seduta prevista oggi alla Camera per la commissione che esamina il decreto legge per gli incentivi. Il PD e la Lega insistono. Vincenzo Miglietta, che succede? Sì, buongiorno. Dopo i recentissimi incontri del governo con gli industriali e con i rappresentanti delle piccole e medie imprese, oggi la partita della crisi economica ha avuto la sua tappa in Parlamento, in particolare in Commissione Finanze ed Attività Produttive della Camera, dove sono attesi subemendamenti alle modifiche apportate dai relatori, a partire dalla dotazione del fondo di garanzia annunciato da Palazzo Chigi da 1,5 miliardi di euro. Per il resto, i lavori sul decreto incentivi, che è lo strumento legislativo scelto per avere una corsia preferenziale, hanno subito un forte rallentamento. PD e Lega insistono per l'ammissibilità di 2 emendamenti bandiera: la tassa sui redditi sopra i 120.000 euro richiesta dal segretario Franceschini per alimentare un fondo in favore dei senza fissa dimora, e poi il tetto agli stipendi dei manager delle banche voluto dalla Lega. Tutto ciò ha fatto saltare la seduta di oggi, se ne riparlerà lunedì dalle 15. Altro capitolo, il piano casa. Il governo prende tempo, domani il provvedimento non sarà in Consiglio dei Ministri, la prossima settimana vi sarà un confronto con gli enti locali. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo. E invece da New York arriva una proposta editoriale per venire incontro ai bisogni dei lettori in tempi di crisi. Sappiamo che e i giornali, di crisi ce n'è tanta anche per i giornali, non se la passano bene in questo periodo. Ma sentiamo qual è la proposta, l'idea nuova che arriva dall'America. È una delle ricette anticrisi più gettonate in fatto di consumi: customizzazione, vale a dire personalizzazione spinta di prodotti e servizi. Ora il su misura arriva anche nell'editoria, con un magazine personalizzato che lascia al lettore la scelta degli argomenti. Si chiama Mine, mio, ed è un progetto pilota del gruppo Time. Il meccanismo è semplice. Basta scegliere 5 tra le 8 testate disponibili sul sito del gruppo e abbonarsi gratuitamente al nuovo periodico, che verrà recapitato per posta o per email, dunque in versione cartacea o elettronica. Gli articoli verranno selezionati dall'editore a seconda delle testate scelte. Dai profili dei personaggi pubblici raccontati dal Time alle azioni più spettacolari di Sports Illustrated fino alle recensioni enogastronomiche di Food & Wine. L'esperimento durerà 10 settimane per un totale di 5 numeri pubblicati. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Ieri è stata la giornata delle polemiche con l'Unione Europea, che ha criticato il Papa per le parole sui preservativi. Oggi prosegue la visita di Ratzinger in Africa. Questa mattina ha criticato gli interventi delle istituzioni finanziarie internazionali nel continente. È stato anche il giorno di una messa con davanti a migliaia di persone. Allora andiamo da Carlo Marroni. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Oggi, il giorno dopo le polemiche dell'AIDS, il giorno, appunto, dicevate, il Papa ha affrontato i temi della crisi anche attraverso questo nuovo documento del Vaticano, che si occupa appunto dei mali del continente in vista del sinodo che si terrà a ottobre. Il passaggio chiave di questo documento parla delle multinazionali che invadono gradualmente il continente per appropriarsi delle risorse naturali e schiacciano le forze locali. Una presa di posizione molto forte che in qualche modo rispecchia il pensiero anche della Chiesa sul regno del denaro, come chiamato qua, che disprezza gli indigenti. Il Papa ha celebrato la messa di fronte a 60.000 persone, oggi pomeriggio sarà in un centro per malati dove incontrerà anche i malati di AIDS, sarà l'occasione per riaffrontare il tema dei preservativi. E dal Camerun è tutto, a voi studio. Grazie Carlo Marroni, restiamo all'estero, andiamo in Austria in attesa della sentenza prevista tra l'altro entro breve. Gli avvocati della difesa e dell'accusa si sono dati il cambio stamani con le arringhe al processo a Josef Fritzl, il padre mostro, come sapete, che ha segregato e violentato la figlia per 24 anni. Ora rischia l'ergastolo, appena ci saranno notizie sulla sentenza naturalmente ve ne daremo conto. Nel frattempo vi raccontiamo un'altra storia, una storia che però arriva non dalla realtà ma da un libro. È uscito ieri in libreria Il bambino che sognava la fine del mondo, l'ultima fatica di Antonio Scurati, pubblicata da Bompiani. Un romanzo che è la storia di bambini che raccontano di aver subito abusi dalle maestre a scuola. Ne nasce un fenomeno incontrollabile che Scurati nel prologo definisce epidemia. L'ha intervistato Alessandra Tedesco. È un'epidemia dell'immaginario. Noi siamo l'umanità più sicura e agiata che abbia mai calcato la faccia della terra, facendo il confronto con qualsiasi altra epoca e con qualsiasi altra latitudine, con qualsiasi altra regione del pianeta. In lungo e in largo, insomma, siamo i più sicuri, e ciò non di meno siamo sicuramente afflitti da un senso di insicurezza ma indeterminato, dalla, appunto, la sensazione di una minaccia non meglio definita oscura, che di volta in volta assume delle figure, si incarna, diciamo così, in figure che sono ieri il terrorista, oggi lo straniero, la crisi economica, il rumeno, l'albanese, il pedofilo, via via. Sono tutte figure dell'immaginario. Con ciò, attenzione, non voglio dire che non esistano nella realtà, esistono, come? Ma il danno che ci procurano proviene innanzitutto dal loro statuto immaginario, da questa loro essere fantasmi penetranti e sfuggenti che affliggono, diciamo così, la nostra mente, attraverso la nostra mente il nostro corpo. È un romanzo chiaramente ispirato alla cronaca, penso per esempio al caso di Rignano o Flaminio. Oh sì, senz'altro, ma qui la pedofilia è, come dire, non certo un pretesto, ma è una metafora di quei terrori, appunto, che affliggono la mente collettiva e che sono tanto più terrificanti quanto meno noi riusciamo a stabilirne la realtà. 13:34 minuti, queste le notizie di oggi. Lo spirito di fazione avvelena la politica, così il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha parlato ricordando Marco Biagi, giuslavorista ucciso 7 anni fa, e ha chiesto di abbassare i toni. La rivolta dei 101 nel PDL, discussione aperta sulle norme anteclandestini dopo la lettera al governo che chiede di non porre la fiducia alla Camera sul DDL sicurezza. Solo manovra in vista del Congresso, ribatte però la Lega. Gli studenti dell'Onda sono guerriglieri e come tali vanno trattati. Parole del ministro Brunetta dopo gli scontri negli Atenei a Torino e Roma. La Francia paralizzata dagli scioperi in piazza contro Sarkozy per chiedere più interventi contro la crisi. Oggi si apre il Consiglio europeo straordinario per discutere ancora di misure economiche. Legata ad un letto con una cintura da kamikaze, così è stata trovata a Roma una donna in una pensione vicino alla stazione, aperta ogni ipotesi. Applausi e lenzuola bianche ai balconi. Il comune di Casal di Principe ha accolto il corteo organizzato in memoria di Don Beppe Diana, il prete ucciso dalla camorra 19 marzo di 15 anni fa. Il Papa contro le multinazionali, invadono l'Africa e la deturpano, scrive il pontefice nel documento per il sinodo a proposito del continente nero. E torniamo a parlare delle parole del pontefice, più che quelle di oggi, di quelle di ieri, che però continuano a far discutere, vale a dire l'affermazione sui preservativi e sull'AIDS. Ieri in Africa, dove si trovava in visita, ha detto che non si può risolvere il flagello con la distribuzione di profilattici, al contrario il rischio è di aumentare il problema. Affermazioni che hanno subito trovato forte critica da Francia, Germania, Spagna, che le hanno definite pericolose, soprattutto perché pronunciate in un continente dove l'AIDS è la principale causa di morte della popolazione. E allora sentiamo un po'. Valentina Furlanetto ha parlato con un medico dell'associazione missionaria QAM, Medici con l'Africa, che ha trascorso gli ultimi 10 anni passando tra l'Etiopia e l'Uganda. Si chiama Fabio Menenti, sentiamo. Prevenire questa infezione e tanto più curare questa infezione è estremamente complesso. Il problema centrale è la povertà di questi paesi. Vanno implementati programmi generali a mirare, cioè diciamo a tentare di ridurre ovviamente i comportamenti a rischio, quindi ovviamente incoraggiando anche i comportamenti sessuali responsabili, quindi anche l'astinenza e la fedeltà, ma chiaramente cercando di garantire l'accesso a tutti quei prodotti che sono ritenuti efficaci, tra cui anche i preservativi. Lei è stato 10 anni in Africa, di cui 5 in Uganda. Qual era la diffusione dell'AIDS? Dunque, in Uganda era molto alta, in realtà grazie ai programmi appunto di prevenzione iniziati negli anni 90, l'Uganda credo che è stato il primo paese a registrare una riduzione della prevalenza. Che tipo di prevenzione facevate? Campagne massive di informazione e diffusione di metodi appunto preventivi come i condom. Quindi, e l'infezione si è ridotta? Si è effettivamente ridotta. I dati di trend di una decina d'anni danno una discreta riduzione della sieroprevalenza in Uganda. Voi siete medici missionari. È vero che nella pratica, in Africa, nelle missioni, negli ospedali cattolici, poi alla fine la diffusione del preservativo è più alta di quello che si pensi? Sì, allora le dico, allora, io mi sono trovato ad operare in ospedali appartenenti alla Chiesa Cattolica locale, quindi in Uganda apparteneva alla diocesi locale, dove anche l'uso del preservativo e in genere gli anticoncezionali era proibito e quindi in quell'ospedale non si faceva. Poi che io fossi libero di dire ai miei pazienti di usare o meno un preservativo, dei mezzi anticoncezionali, questo era anche riconosciuto, però è chiara la posizione ufficiale dell'ospedale era in quel senso. Allo stesso modo ci sono invece altre realtà, quindi africane, dove anche la Chiesa ha assunto una posizione diversa e per cui i preservativi sono tranquillamente distribuiti anche all'interno delle strutture sanitarie cattoliche. Quindi la realtà sul campo è molto frastagliata? È molto diversificata. Che spiegazione dà da medico del fatto che il Papa ha detto che la distribuzione di preservativi al contrario aggrava il problema dell'AIDS? C'è un fondamento? Sull'aggravare no, o meglio, è chiaro che il pensare che ovviamente sia l'unica soluzione è sbagliato, non è sicuramente l'unica soluzione. E così dunque il dottor Fabio Menenti, Medici con l'Africa, che ha trascorso gli ultimi 10 anni tra Etiopia e Uganda, nell'intervista di Valentina Furlanetto. Voltiamo pagina. Sì, c'è una notizia di un'ultima ora, riguarda l'economia, richieste di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti, la diciamo perché sono minori delle attese, dunque è una notizia positiva, una volta ogni tanto che capita, insomma, è doveroso fare una cronaca positiva dell'andamento economico. E allora salutiamo Giulia Crivelli, andiamo all'estero sui giornali stranieri, buongiorno Giulia. Buongiorno. Allora, una notizia sulla crisi ce l'hai anche oggi da raccontarci. Sì, purtroppo, per carità, è giustissimo cercare di trovare i segnali positivi, però anche guardando all'estero ce ne sono anche di negativi, per esempio su Le Figaro, ma anche Libération, su Le Monde, su tutti i giornali francesi c'è grandissimo spazio per queste manifestazioni che sono previste in tutto il paese, che tra l'altro, per esempio, per quanto riguarda i treni avranno anche delle conseguenze sull'Italia, perché saranno difficili i collegamenti. Gli otto principali sindacati francesi questa volta sono uniti nel sostenere questa manifestazione, e quindi in realtà saranno 200 sparse per tutta la Francia, e secondo Le Figaro, che tra l'altro è un giornale molto vicino al governo del presidente Sarkozy, quindi ovviamente è lo sciopero è contro le politiche di Sarkozy, però ammette anche Le Figaro che nessun paese in Europa ha visto in questi mesi una mobilitazione su questa scala. Cos'altro ci racconti oggi, Giulia? E poi, per fare un altro parallelo, però saltando un altro argomento, invece la prima pagina di El País, ma anche su El Mundo, sulle prime pagine campeggiano queste foto tratte dagli scontri, perché l'Italia non è l'unico paese che sta cercando di avviare delle riforme sull'università, e quella che però, e la curiosità è anche un po' questa, la rivolta di Barcellona viene definita la rivolta anti-Bologna, perché c'è questo piano europeo che prende il nome dall'Università di Bologna, che sappiamo è la più antica al mondo, ed è un piano che rivede una serie di misure sulle università europee che gli universitari, in particolare di Barcellona, contestano. E anche a Barcellona, perché se le manifestazioni diventano violente la polizia purtroppo deve intervenire, anche a Barcellona la polizia è intervenuta, e ci sono appunto le foto degli studenti a terra e dei poliziotti con i manganelli in mano, in tenuta antisommossa. Giulia, in Gran Bretagna si discute invece di mance? Sì, per noi forse è un po' strano, nel senso che nei paesi anglosassoni la mancia ha un ruolo un po' diverso che da noi, cioè una vera e propria integrazione dello stipendio, perché gli stipendi di base sono molto bassi e sono naturalmente integrati con le mance, che, come sa chi è stato in Inghilterra o soprattutto in America, se ci scordiamo di calcolarle meno del 10%, il cameriere subito si agita e ci chiede se per caso ha fatto qualcosa di sbagliato. Si è tentato con una legge di togliere questa pratica, cioè di mettere le mance direttamente nello stipendio, quindi di alzare gli stipendi e così facilitare, se vogliamo, anche la vita a chi va al ristorante, che non deve fare tutti questi calcoli. Però in realtà adesso i ristoratori britannici dicono: va bene, se ci obbligate a mettere in pratica questa legge, calcoliamo, mettete in conto che dovremo tagliare dei posti di lavoro, perché questi non sono tempi in cui si possono alzare gli stipendi. È come sempre, insomma, se qualcuno ci guadagna, qualcun altro ci perde, e di questi tempi nessuno vuole avere spese extra. Grazie Giulia Crivelli per oggi, per questa panoramica, come sempre, dei giornali stranieri. A partire da oggi siamo tornati in Italia, nei 36 principali aeroporti nazionali, dunque una notizia che riguarda chi magari proprio oggi si mette in volo, vengono distribuite dall'ENAC 125.000 copie della nuova Carta dei diritti del passeggero. La carta è giunta alla sesta edizione. Sentiamo il presidente dell'ENAC, Vito Riggio, oggi a Radio 24, a Soldi e Dintorno con Deborah Rosciani, chiarisce le novità che riguardano i bagagli smarriti. Fa parte degli obblighi che le compagnie hanno nei confronti dei loro clienti in base a un regolamento della Comunità Europea su cui noi vigiliamo. È evidente che sono aumentati in numero esponenziale i bagagli smarriti, ma sono aumentati anche in volume i passeggeri nel 2007. Siamo attorno a 2 miliardi di passeggeri. Quindi la percentuale non è aumentata. Per quanto riguarda l'Italia, poi siamo ad una percentuale complessiva, non riguarda solo l'Italia ma l'intero trasporto aereo italiano, che è del 2 per mille, cioè percentuale assolutamente fisiologica. Il che vuol dire che, pur facendo tutti gli sforzi, come facciamo attraverso quest'opera anche di informazione dei cittadini, dei consumatori, ma soprattutto di sanzione nei confronti delle compagnie, affrontiamo un tema che è delicato ma non è drammatico. Non è normale sbarrire le valigie, è un caso ancora eccezionale, potrebbe diventarlo se continuassero le crisi aziendali come quella che ha investito l'Italia, o come quella che ormai purtroppo da anni riguarda l'aeroporto di Heathrow, dove appunto si sbarrisce un numero di bagagli altissimo. E infatti, noi, per la verità, su Fiumicino non abbiamo elementi così allarmanti. 13:46, GR24 Extra Large. E nella prima parte del giornale ci siamo occupati delle polemiche nel PDL per la lettera dei 101 deputati contro la norma difesa dalla Lega sui clandestini. Il ministro Maroni ha detto che non sarà messa la fiducia per La Russa, non c'è nessuna polemica pre-congresso del PDL. E poi siamo andati a Modena per la commemorazione dei 7 anni dell'omicidio di Marco Biagi da parte delle Brigate Rosse, con l'appello di Napolitano al mondo politico a superare la faziosità, parole che sono seguite, a cui sono seguite quelle del ministro Brunetta, che ha detto gli studenti dell'Onda sono dei guerriglieri. E poi abbiamo parlato del Papa, le sue frasi di ieri sull'uso del preservativo in Africa, abbiamo sentito il parere di un medico cattolico impegnato nel continente. Oggi però le critiche del pontefice sono rivolte alle multinazionali che invadono, ha detto, l'Africa e la deturpano. La storia ora invece tutta italiana. Andiamo a Casal di Principe. Applausi e lenzuola bianche ai balconi. Così è stato accolto il corteo in memoria di Don Beppe Diana, il prete ucciso dalla camorra il 19 marzo di 15 anni fa, questa mattina. Per amore del mio popolo, e dietro questo striscione che hanno sfilato davvero migliaia di cittadini, insieme al padre di Don Peppe, il governatore della Campania Antonio Bassolino, Don Luigi Ciotti dell'Associazione Libera e dal sindaco di Casal di Principe Cipriano Cristiano. Tanti cittadini che lungo le strade, il termine casalese non vuol dire cittadino di Casal di Principe, ha detto il sindaco Cipriano Cristiano. Qui c'è voglia di combattere la camorra e lo stiamo facendo in tutti i modi. Raffaella Calandra ha sentito il fratello di Don Peppino Diana, Emilio Diana. Sentiamolo. È importante perché dopo tanti anni ci sta ancora qualcuno che si interessa, perché almeno dopo il suo sacrificio può succedere qualcosa di positivo. A Casale non ci sono solo i camoristi, ma sta pure la gente per bene, sperando che il popolo italiano riesce a capire che a Casale c'è pure gente per bene. Don Peppino è stato ucciso dalla camorra, nel paese però non sembra che siano migliorate molte le cose. Sì, un poco sono migliorato. Rispetto a prima sono migliorato. Quindi lei vede che ci sono più persone che la pensano diversamente? Sì. Lei se lo ricorda il giorno in cui suo fratello fu ucciso? È che abbiamo visto Cassano, abbiamo avvisato a casa che avevano ucciso Don Peppe. Voi sapevate che si esponeva così tanto contro la camorra? Sì, parlava della camorra in generale però. Certo, diceva alla gente di cambiare vita. Sì. E voi avete notato che qualcuno ha cambiato vita in questi anni? Beh, penso di sì. Ai suoi figli, sento che ha dei figli piccoli, ha raccontato la storia dello zio? No. Perché non gliel'ha raccontata? Però ricordava sempre le solite cose, perciò. Beh, però è anche una storia eroica. Lo so, ma lo ha preso pure dai giornali, cose, quindi già gli è stato raccontato. Perché poi sono grandi, vanno a scuola e quindi ogni anno si parla sempre delle solite cose e quindi lo sanno già. E lei non ha voluto raccontargliela? No. Lei direttamente. Per i ragazzi di Casale, Don Peppino è un eroe? Penso di sì. Eh sì, perché nelle scuole si parla continuamente, quindi i ragazzi fanno domande ai professori, cosa faceva. Non c'è mai qualcuno che cerca di sporcare la memoria di Don Peppino, di dire delle cose false, delle bugie? No, in passato, insomma, attualmente no. Che valore ha essere a Casal di Principe? Scendere in strada per dare un segno di forza? Per dare un segno di forza... Contro la camorra? Sì. Qual è l'immagine che lei ricorda di più di suo fratello? Quello che lui faceva. Cioè andava ai campi scuola con gli scout, cose. Portava i ragazzi a Lourdes. Perché lui faceva un treno per Lourdes, portava i malati a Lourdes. Voi avevate paura quando suo fratello Don Peppino parlava così e si impegnava così contro la camorra? Voi come avete vissuto quegli anni? Lui parlava della camorra in generale, perché poi è una missione che aveva e quindi automaticamente diceva le cose. Ecco, però stando in un paese così difficile, voi casomai lo sapevate anche che correva dei rischi? Penso di no. Non pensavate che lui era in pericolo? Si arrivava a questo, in poche parole. Stai attento, non niente di più. E lui che cosa vi rispondeva? Lui rispondeva che lui aveva una missione, quindi parlava. Al microfono di Raffaella Calandra era il fratello di Don Peppino Diana, ucciso 15 anni fa dalla camorra. Ora vi raccontiamo invece un'altra storia che arriva dal mondo arabo. Si chiama Mukhtar, è pakistana ed è diventata simbolo della lotta femminile nel suo paese. Nel 2002 suo fratello è stato accusato di avere molestato una donna di una tribù rivale. Il consiglio della sua tribù decide che deve saldare il debito facendola stuprare da un branco di 3 uomini della tribù offesa. Ma la donna non ci sta e denuncia i suoi aguzzini, riuscendo a portarli in tribunale, e il governo la mette sotto protezione. Di oggi la notizia del suo matrimonio con la sua guardia del corpo in un piccolo villaggio del Punjab. Fedele alla sua fama di donna libera, con un gesto di grande solidarietà femminile, Mukhtar ha detto sì alle nozze, ma solo dopo aver imposto all'aspirante sposo di intestare la casa alla prima moglie e di rinunciare ai suoi propositi di ripudiarla. Radif Tahali, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large. Alessio Maurizi e Anna Migliorati in studio, il coordinamento di Maria Piera Ceci, in regia Pietro Lacorte. Extra Large @radio24.it, la nostra mail se volete scriverci. L'appuntamento con Extra Large altrimenti è per domani, come sempre, dalle 13. Buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.